A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Siamo a Parma, sotto al portico del Grano, dove il volto di Giuseppe Verdi è ora l'unico interlocutore tra il palazzo e la piazza. Dopo 3 mesi di arresti, proteste, debiti e monetine, il sindaco che voleva fare grande la sua città se n'è andato, precipitato nel solcato, scavato dagli scandali, finito nella voragine di spese che ipoteca il futuro di Parma. Caduta l'amministrazione, resta Verdi dunque, e restano i debiti, la storia passata e quella futura. E noi partiamo da qui per questa puntata di A ciascuno il suo, nella Tangentopoli parmense. Noi avevamo questa tradizione di manutenzione del verde per conto del Comune di Parma, che è antichissima. Nel tempo siamo riusciti a creare una società che era un po' il fiore all'occhiello di questa città, che era un'ATI fra l'ex municipalizzata e le cooperative sociali per la gestione proprio del verde pubblico a Parma. A un certo punto che cosa è cambiato nel vostro lavoro? È cambiato che i lavori che fino all'anno prima ci venivano affidati venivano spostati su dei privati. L'orologio del Palazzo del Governatore nella piazza centrale scandisce già le ore della nuova era di Parma, mentre a San Bassi, presidente della cooperativa sociale Cigno Verde, racconta il suo prima e dopo, perché dietro gli appalti che lui ha visto progressivamente diminuire c'erano in realtà quegli sprechi e quelle spese che la procura ha chiamato tangenti. Ed il punto è qui. Al di là delle dimissioni e del terremoto politico, infatti, anche dopo il passo indietro del sindaco Pietro Vignali, resta l'abbraccio velenoso tra pezzi di palazzo pubblico e interesse privato, scoperto in indagini che hanno portato 15 persone in carcere in pochi mesi. E restano i debiti pesantissimi, circa 600 milioni, e la rete che li ha prodotti, con un unico meccanismo ricostruito in più inchieste dalla Guardia di Finanza, guidata dal colonnello Guido Mario Geremia. Le 3 indagini hanno evidenziato dei fenomeni di corruzione perniciosi, considerato l'ambito in cui stiamo ad operare, cioè la pubblica amministrazione. In tutti e 3 i casi dei funzionari, d'accordo con imprenditori, raggiungevano l'accordo per sottrarre e quindi intascare illecitamente i soldi della pubblica amministrazione destinati ad opere nel verde pubblico oppure nell'ambito delle mense scolastiche o quant'altro. Quello che traspare è che il tipo di reato è lo stesso, ma è lo stesso forse anche il sistema. Dà sicuramente contesto di una diffusione del fenomeno che è abbastanza preoccupante. Quindi un fenomeno che racconta di un legame, anche se con personaggi e con protagonisti diversi, di un legame tra amministratori pubblici, imprenditoria e servizi pubblici gonfiati, quindi per aumentare le spese. È un accordo che è risultato molto spesso esistere tra pubblici amministratori infedeli e imprenditori. Molto spesso il fine ultimo è soltanto un pretesto per potersene appropriare. Prima il verde, poi i rifiuti, quindi i vigili e per finire le mense scolastiche. Sono i 4 filoni della Tangentopoli parmigiana che in 3 mesi ha mandato in carcere 15 persone e che ha ribaltato la scena politica della città. È partita nel 2007 l'inchiesta Green Money su presunte tangenti pagate in cambio degli appalti sul verde pubblico. Risalgono all'11 giugno 2010, invece, i primi arresti che iniziano a scalfire l'apparato amministrativo. 4 persone, tra cui un funzionario di IREN, l'azienda che gestisce i rifiuti, e 3 imprenditori vengono portati in carcere. L'accusa sempre la stessa, mazzette. Uguale ancora a quella che un anno dopo avrebbe innescato il terremoto finale. Il 24 giugno 2011, in 11 tra gli alti dirigenti del comune, funzionari, imprenditori e pure il comandante della polizia municipale finiscono in manette. Green Money registra la seconda puntata, mentre pochi giorni dopo la Corte dei Conti condannava gli amministratori, ma anche il precedente sindaco, al pagamento di 370.000 euro per polizze assicurative illegali. Infine, mentre il debito cittadino cresceva, insieme alla protesta dei cosiddetti indignati, le indagini fanno un salto di qualità. Si passa dai soldi puliti a quelli facili. Easy Money è il nome dell'indagine che lunedì 26 settembre ha aperto i cancelli del carcere ad altre 4 persone per sospette tangenti dietro gli appalti nelle mense scolastiche. Ma stavolta c'è anche l'assessore all'istruzione, Giovanni Paolo Bernini. E la differenza è decisiva, come nota lo stesso sindaco nella sua lettera di dimissioni, ma nell'estate dello scontento di Parma, quando il clangore dei coperti sbattuti è riecheggiato più delle note di Verdi, la città si è scoperta con un volto diverso dietro quei cantieri che promettevano grandeur e le inaugurazioni che preannunciavano ribalte internazionali. I cittadini di questa città emiliana, la 14ª d'Italia, hanno scoperto di avere invece una voragine di debiti da una parte, un consistente giro di mazzette dall'altra. E la domanda è: c'è qualche contatto tra l'una e l'altra? Si doveva controllare, poi non era in grado di controllare. Non vengono presi dei provvedimenti nei confronti di soggetti che sono a rischio, direi. Il riferimento del procuratore Gerardo La Guardia è al curriculum dell'assessore all'istruzione arrestato, Giovanni Paolo Bernini, che vanta anche un pranzo con un boss dei casalesi, quale Pasquale Zagaria. Ma è lo stesso procuratore che aveva già sentenziato che la corruzione a Parma è molta e che però molte persone stanno iniziando a denunciare. A partire dall'esposto di un amministratore della CAMST, infatti, si è arrivati alla scoperta anche delle tangenti contestate a Bernini e diversi esposti li hanno consegnati alla Procura, come alla Corte dei Conti, i rappresentanti dell'opposizione, come Giorgio Pagliari del PD. Nell'ambito delle questioni sulle società partecipate, dal caso del referendario della Presidenza del Consiglio, cui è stato offerto un contratto da 190.000 euro all'anno per 3 anni per svolgere un'attività di consulenza al Comune di Parma strettamente inerenti alle funzioni per le quali era pagato dalla Presidenza del Consiglio. Che cos'era? Si tratta di un referendario presso la Presidenza del Consiglio, distaccato all'Unione Europea, per occuparsi dei rapporti tra l'Unione Europea e il governo italiano. 190.000 euro all'anno, senza obbligo di presenza in loco, con il pagamento anche a Parma delle spese di vitto e alloggio, tenendo conto che la persona risiedeva a Reggio Emilia, cioè a 27 km di distanza. Questa operazione è stata fatta fare a STT, alla holding del gruppo delle società partecipate del Comune. Il sindaco si è peritato di dire che questa operazione gli era stata richiesta per iscritto dal sottosegretario Gianni Letta. Lei ha parlato di una rete clientelare. Voglio ricordare quella che rimane l'operazione più scandalosa, i 14 parcheggi sotterranei del centro storico, che costeranno a questa collettività non meno di 1.800.000 euro di penale, perché la giunta ha voluto arrivare all'aggiudicazione a tutti i costi. Oggi l'opera è irrealizzabile, il recesso non costa meno del 10%. Voglio ricordare da questo punto di vista che io sono andato in procura a consegnare la busta con il nome del vincitore, che avevo depositato presso notaio prima che venisse indetta la gara. Poi la rete clientelare è stata fatta sul piano delle assunzioni in comune con i contratti, tanto come nelle società partecipate, e qui abbiamo fatto anche la denuncia alla Corte dei Conti, il favore come regola dell'azione, lasciando totalmente sullo sfondo, per non dire nel dimenticatoio, l'interesse collettivo. Dall'esposto dell'opposizione è maturata anche l'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati per abuso d'ufficio di 14 persone, tra cui 11 assessori o ex, per la ristrutturazione dell'ospedale vecchio. L'accusa: aver favorito l'azienda di un importante imprenditore edile, Pizzarotti, anche lui indagato. Tra gli altri, sotto accusa, anche l'ormai ex vice sindaco Paolo Buzzi. Come giunta noi abbiamo approvato una deliberazione che è stata sottoposta, che è passata al vaglio di dirigenti, al vaglio di segretario generale, anche perché il tutto è nato da una gara pubblica, per cui sinceramente non lo so. Io so soltanto una cosa, che da 3 anni noi siamo sottoposti ad un accanimento indagatorio che secondo me non ha precedenti, non ha, nel senso che non abbiamo avuto un ufficio o una società che non sia stata interessata da ispezioni, sequestri per esposti che venivano fatti dal primo che passava per strada. Al di là di quelle che potrebbero essere lette come strumentalizzazioni politiche da parte di chi accusa e chi controbatte, restano i conti lunghi delle spese fatte sopportare alle tante società partecipate del Comune, una ventina, per dribblare i vincoli del patto di stabilità, e restano i numeri di un nutrito ufficio comunicazione arrivato a contare anche una decina di persone, come la squadra ai massimi degli assessori, 14 più 5 senza portafoglio. Restano infine ancora le altre indagini aperte scoperte che porteranno ad altre novità sulle assunzioni in comune di dirigenti che non avrebbero avuto i titoli, ma soprattutto sulla rete di società partecipate lasciate ora con un fardello di debiti e con una storia di operazioni non proprio prudenti che da queste parti a qualcuno rievoca gli affari della Parmalat. A ciascuno il suo. Recentemente è venuto l'inviato di un giornale olandese che era già venuto a Parma per fare un'inchiesta su Parmalat. E io ho detto, ma come mai? Dice, ma io ho questo interesse perché voglio capire se a Parma c'è un virus che produce questi effetti. Scorre nelle acque del Parma, evidentemente un virus, no? Sono poche le acque, ma il virus è grande. Qualche elemento in comune c'è: la superficialità, lo spreco e la mania di grandezza. In cerca del virus che genera debiti, camminiamo insieme a Marco Ablondi, consigliere indipendente d'opposizione e memoria storica di Parma, lungo gli argini del fiume cittadino che l'amministrazione uscente puntava a trasformare in una grande aiuola e per farlo aveva speso 180.000 euro in rose, che però non sono mai sbocciate, come hanno raccontato le carte delle inchieste e come hanno visto nella stessa cooperativa del Cigno Verde di Assan Bassi, confrontando i prezzi pagati in origine e quelli sborsati poi a favore dei privati. Le rose sono state gestite dalle cooperative sociali per molti anni. A un certo punto ci sono state tolte, sono state tutte sostituite con dei prezzi che sono assolutamente fuori mercato. Piano piano lavori che fino all'anno prima erano gestiti direttamente dalle cooperative sociali venivano spostati su dei privati. Che tipo di lavori? Tutti i lavori che venivano definiti in emergenza, dalla sostituzione di un rubinetto di una fontana all'installazione di una panchina, da una potatura urgente a lavori di questo tipo, cioè piccoli lavori che però avevano grossi margini di guadagno dai numeri che noi vedevamo, cioè lavori che fino all'anno prima andavano in manutenzione ordinaria, adesso venivano spostati su urgenze, su una manutenzione straordinaria, quindi con dei prezzi molto più alti. Prezzi della cui differenza avete potuto avere visione diretta. Quello che notavamo, che era chiaro, era che i prezzi sulle urgenze che non venivano più dati in affidamento alle cooperative sociali erano molto più alti di quello che veniva dato quando era in manutenzione ordinaria. Quando sono cominciati a diminuire i lavori che vi venivano affidati, voi come avete reagito? Avete chiesto spiegazioni all'amministrazione comunale? Noi abbiamo chiesto spiegazioni prima di tutto ai nostri referenti nell'ATI, cioè l'Associazione Temporanea di Impresa, che era direttamente AMPS, nella quale avevamo due interlocutori principalmente, che erano Tannoia e il dirigente Bertoli, che sono entrambi oggi agli arresti. Ci rispondevano che così era e non dovevamo lamentarci proprio perché la qualità del nostro lavoro non era all'altezza. Questa cosa fra l'altro è una falsità che noi siamo poi riusciti a dimostrare anche successivamente grazie anche a interventi direttamente affidatici dopo lo scoppio dello scandalo. Come non c'erano state le rose, così non era mai stato costruito il canile, opera poi dei volontari, nonostante i lavori fossero stati già pagati. E stessa sorte hanno avuto le cucce per i cani da droga, mai acquistate, perché i soldi erano stati usati per mettere a posto il giardino della casa a mare dell'ex comandante dei vigili urbani, Giovanni Maria Jacobazzi, arrestato. Accanto alle opere pagate, ma mai realizzate, c'erano poi quelle gonfiate, con la parola magica dell'emergenza, o le informazioni vendute dietro mazzette, come quella inquadrata con un video. Lo zoom immortale al passaggio di una busta dalle mani di un investigatore privato a quelle del capo dei vigili. E se questo è quel che è già venuto fuori, altri aspetti poco chiari si nasconderebbero, secondo gli inquirenti, nei rapporti tra il comune e tutta l'ampia galassia di società partecipate: SPIP, STT, Parma Infrastrutture, STU Stazione, STU Pasubio, STU Authority, TEP Infomobility. Il dirigente della società di trasformazione del territorio, Andrea Costa, già si era dimesso dopo un avviso di garanzia per abuso d'ufficio. C'è stata una cattiva gestione, ammette l'ex vice sindaco Buzzi. Gli episodi di corruzione che ci sono stati, almeno fino adesso, quelli che sono emersi, parliamo di qualche migliaio di euro, quindi rispetto a centinaia di milioni che poi si ammonta il debito, cioè è una cosa ridicola e irrisoria. Se il debito è servito per degli investimenti a un conto, se il debito serve per altre cose posso essere d'accordo che in realtà è una mala gestio. Secondo lei non c'è stata mala gestio? Ci può essere stata, no, noi abbiamo iniziato delle azioni di responsabilità nei confronti di ex amministratori perché i nostri legali hanno sostenuto che ne esistessero i presupposti. Quindi voglio dire, evidentemente malagestio c'è stata, li dobbiamo verificare nelle loro dimensioni. Secondo il procuratore La Guardia, le società partecipate erano state mucche da mungere, ma da chi e in che modo? Noi auspichiamo che la città volti pagina non soltanto cambiando i nomi, ma cambiando completamente il sistema. C'è aria da Tangentopoli a Parma, con la gente che incoraggia i magistrati per strada e lancia monetine contro il comune. Alle inchieste si chiede di far fare il cambio di rotta alla città, proprio come avveniva, ma con altre dimensioni, durante Mani Pulite. E in attesa che le indagini mettano insieme le tessere, scorrendo gli atti amministrativi si registrano per ora le domande sollevate sui rapporti, ad esempio, con la società Alfa, controllata dal comune, per i 21 milioni pagati per l'area dell'ex mercato del bestiame, o l'ingiunzione di pagare da 1.800.000 al centro agroalimentare logistica per prestazioni di facchinaggio. E si possono poi contare i progetti avviati per una mastodontica stazione, il contestato Ponte Nord, i palazzi dello sport e le sedi delle varie authority inaugurate, tutto in formato extra large e quindi super costoso. Una voce dopo l'altra, i costi sono lievitati, anche se partite da un rosso di almeno 70 milioni del precedente sindaco Elvo Ubaldi, già padrino di Vignale, salvo poi rinnegarlo. Vedevo che vi era una grande protervia nel volere, ad esempio, opere nuove che portavano ad un disfacimento progressivo. Un aumento del debito hanno provocato dei disastri. E lei che idea si è fatto del perché di tutto questo? Il rapporto con il mondo imprenditoriale non è mai stato un rapporto molto chiaro, molto trasparente. Queste inchieste, lo schema ripetuto in tre aspetti diversi, parla di accordi tra funzionari pubblici, politici, una rete clientelare. Prima i debiti erano molto contenuti perché avevamo 70-80 milioni di debiti. Poi all'improvviso c'è stata l'esplosione. Secondo me un po' da attribuire alla volontà di emergere, dall'altro evidentemente si era innescato un meccanismo che poi ha portato al disastro. Un altro capitolo sotto la lente degli investigatori sono le assunzioni. Si indaga sui dirigenti messi al libro paga delle casse pubbliche senza avere tutti i titoli. Ma c'è stato anche il caso dei tanti consulenti esterni, come i 71, che dovevano essere poi assunti da dicembre 2010 a giugno 2012 con compiti in sostanza ancora di comunicazione, front office, turisti e definizioni simili. Un dato che per gli abitanti di Parma ha oggi anche il suono della beffa, dopo che hanno saputo che proprio conferenza stampa era la parola in codice dell'assessore arrestato per indicare le mazzette. Per Beppe Sebaste, scrittore di Parma, tutto è cominciato con la scomparsa delle panchine, titolo di un suo libro edito dalla Terza. Già Bruno Barilli parlava nel suo libro sul melodramma di un popolo inquieto incline al tumulto, ed è diventato invece la città campione dell'anestesia sociale, dell'anestesia culturale, della globalizzazione della sbronza, come io chiamo l'happy hour, no? Con personaggi da falò delle vanità di provincia proprio, no? Quella città che è legata anche ai ricordi classici di Stendhal, è legata a Verdi. Tutto questo come si mescola con l'immagine di una città che sembrava essere una città modello e che invece si è scoperta piena di un feudalesimo d'altri tempi? Stendhal, certo, ne ha descritto soprattutto la campagna. Questa mia nostalgia, diciamo, per un passato diverso, è in effetti per una città che aveva delle basi molto solide nel mondo contadino, no? È quello che ancora si vede il Novecento di Bertolucci. La ricchezza di Parma era quella delle industrie agroalimentari, no? Una volta tradita questa vocazione, è diventata da una parte una città come tutte le altre, ma ancora peggio. Tutto potrebbe essere partito dalla scomparsa delle panchine. Esattamente, dalla scomparsa delle panchine con tutto ciò che di metaforico, sociale e culturale comporta, proprio come spazio pubblico. Vengono quasi in mente le lucciole di Pasolini. C'è una parentela nel senso della sensibilità a quei dettagli. La scomparsa delle panchine era il preludio a una vetrinizzazione sociale, come direbbero i sociologi, credo, e le persone sono felici come palline da flipper in realtà. A ciascuno il suo finisce qui. Per riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, www.radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Siamo anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, o sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.